Radio 24 Day. La calda estate dell'euro è stato il tema del nostro Radio Day in questa che sappiamo sarà una settimana cruciale per il futuro della moneta unica europea. Ritroverete tutti gli approfondimenti sul nostro sito internet all'indirizzo radio24.it. Ora affidiamo le conclusioni al nostro direttore Fabio Tamburini. Oggi Radio 24 ha dedicato una parte significativa della programmazione alla calda estate dell'euro e proprio oggi, se qualcuno aveva dubbi, si è avuto conferma della posta in gioco il futuro dell'Unione Europea, un futuro che non è scontato con i mercati finanziari in fibrillazione e la crisi economica sempre più drammatica. Da una parte alcuni paesi, a partire dalla Grecia, che non riescono a tenere il passo dei sacrifici necessari e il sospetto è che continuino a non essere trasparenti, a non rispettare gli impegni presi. Sul versante opposto la Germania è sempre più isolata nella richiesta di rigore assoluto, che sottovaluta la necessità di puntare sullo sviluppo, unico vero antidoto al disastro economico. La verità è che gli stessi tedeschi non uscirebbero indenni dal crollo della moneta unica. E forse per la prima volta lo ha ammesso in una significativa intervista a Der Spiegel, il popolare settimanale tedesco, il ministro dell'economia Wolfgang Schäuble. Anche la locomotiva tedesca verrebbe seriamente danneggiata dal crollo dell'euro, con scenari che suscitano grande preoccupazione. Ecco perché, anche per la Germania, il salvataggio dell'Europa a caro prezzo appare come il minore dei mali, esattamente come emerso con chiarezza dai programmi speciali organizzati oggi da Radio 24.